ora un feedback. Quando lo dici non c'è mai, non lo fai. E quando e quando invece vuoi parlare normale, ma come mai sta cosa qua, la tecnologia, eccolo. Credo asilo. Secondo te, se io la faccio rimbalzare, vedi, cade dal tavolo. Cade dal tavolo. Sì, è per forza, difficile che rimanga all'interno della superficie del tavolo. Vabbè, quindi questa cosa è molto interessante. Molto interessante per cominciare la puntata di oggi, che sarà tutta incentrata sul tema dell'enfant prodige. Tutta incentrata, tutta. Tutta, perché l'enfant prodige è uno di quegli elementi che possono interessare qui a Chiedo Asilo. Elementi. Sì, perché sono quelle persone che non si capisce bene come mai hanno un grande talento da giovani e poi quando sono vecchi, insomma, sono cavoli. Ma è automatico, cioè quando uno è enfant prodige vuol dire che è prodigio solo in quanto enfant, che quanto appena diventa enfant, ragazzo o adulto deve rimanere prodige ed è un bel casino. È il caso ad esempio di, non so, tutti gli autori, tutti gli attori che sono stati lanciati ultimamente dalla Disney. Sì, no? Tutti. Se hai visto, hanno avuto degli esiti abbastanza diversi da quelli che erano stati i loro inizi. Ad esempio prendi Britney Spears, cos'è partita? È partita come una cantante delle ragazzine e poi è finita ubriaca dappertutto, sempre in questo rehab e compagnia bella. Sì. Adesso c'è Selena Gomez e Vanessa Hudgens, sì, che sono queste due superstar attrici che hanno sui 20 anni, lanciate dalla Disney, quindi hanno 20 anni e non sono più nel target vero Disney. Non sono più enfant. E hanno girato questo film, è stato presentato a Venezia recentemente, un film molto spinto che si chiama Spring Breakers. Sì, ho visto. In cui si parla di queste feste di primavera in cui gli studenti americani fanno così, si ubriacano, si drogano, vanno a fare le rapine anche, però sì, ma il sesso lo fanno? Sì, fanno molto sesso. Sesso, perché ho letto che in tutto il film sia Selena Gomez che Vanessa Hudgens, che le altre due protagoniste di cui non sappiamo i nomi, sono costantemente in bikini. E già questo. Mattino, sera, in moto, in macchina. Tranne cosa, quando fanno le rapine che hanno il passamontagna, come le Pussy Riot. Però ce l'hanno rosa al passamontagna. Sì. E questo, come dire, rimane un po' questo carattere Disney. Nel passamontagna rosa. Fanno la rapina, Disney, però hanno il passamontagna. Ma scusa, in Italia, adesso sempre a parlare dell'estero, Spring Break, Disney, in Italia non si fa. Per esempio, questa tradizione bellissima di fare la festa di primavera in cui le ragazze fanno vedere il seno se tu le regali un ciondolo facilissimo da trovare, magari, no? Quindi i ragazzi si armano di ciondoli, regalano questi ciondoli e loro ciondolano. Invece in Italia non esiste. In Italia non abbiamo neanche tanti enfant prodige. No, ce ne sono pochi, sì, devo dire. Noi avevamo Giusva Fioravanti, che era un enfant prodige degli sceneggiati negli anni 70. Come no? Anni 60-70, lui era uno che, insomma, aveva fatto lo sceneggiato famoso, quello di Copperfield, no? Ecco, comunque con Johnny Dorelli, con quella gente lì, lui poi ha fatto il terrorista. Però. Poi appena ha avuto l'età della ragione, ha preso le armi e ha cominciato a ammazzare gente. Ma perché in Italia è così. In Italia ti stufi di fare l'enfant prodige, devi subito fare il terrorista. Il terrorista prodige. Però c'è il caso invece opposto. Sì. Che è quello della star bambina che rimane uguale a se stessa anche fino a 50 anni. Ed è il caso di Cristina D'Avena, che faceva lo Zecchino d'Oro quando aveva 4 anni. Sì. Adesso, quando la vedi in televisione, fa fare le stesse identiche cose. Ah sì? E quindi tu immagina se il povero Fioravanti, quando era una fan prodigio, invece di conoscere sua moglie Fiorella Mambro, avesse conosciuto Cristina D'Avena, e la coppia, si parlerebbe adesso di una coppia D'Avena e Fioravanti invece di Mambro Fioravanti. Secondo me cosa andavano meglio in Italia? Anche D'Alema Fioravanti. La crescita, quando è che si cresce? Io mi sto chiedendo, Monti cosa aspetta? Siamo qui tutti col centimetro ogni giorno. Ma che è la decrescita il termine chiave, Drago? Dai, arrivi tardi. Vedi, la crescita va bene, ma se la chiave fosse invece la decrescita, capisci che tutti i discorsi che sentiamo in televisione sono tutti buttati lì che non servono se niente. Se di colpo cambi la parola crescita con la parola decrescita, tutto migliora. Intanto traduciamola. La decrescita, in inglese si dice... Che ne so, degrowth, degrowth, in spagnolo La descrescenza. Descrescenza. L'escrescenza è quella che hai tu. Sì, orribile, ecco. Vicino sì. al labbro. Invece, credo che sia la crescenzia il... invece è il formaggio. Quindi non lo so. Il decrescimento. Ah, decrescimento. Magari. In sì. Invece, in francese. De perché... croissant. De croissant. Croissant. No, ecco. Appunto. Cioè... Perché la decrescenza. No, decrescenzo invece. No, infatti, è un cantante. È un filosofo. Anche. Anche. È anche ecco, un cantante. Anche. Mentre due cantanti, sì, però, Gino De Crescenzi e Edoardo sì, De Crescenzi. Ma siamo seri, Draghi. Sì, okay. È una corrente di pensiero politico, certo. Ecco, certo. Economico, sì, molto serio, sociale. Sì, sì. E che cos'è? È favorevole, dai, vediamo se lo sai, a ridurre in maniera controllata, selettiva e volontaria, la produzione economica. Invece noi lo stiamo facendo in maniera involontaria. Cioè noi, la nostra decrescita italiana non è voluta, sì, e quindi non solo fa parte italiana, di questa, sì, perché no. L'obiettivo vero è quello di cercare di mettere in equilibrio, no? Anche dal punto di vista ecologico, l'uomo e la natura. È una questione di equità tra gli esseri umani, ma anche tra gli animali, le città, i fiumi e le capitali. Sì, va bene. I mestieri. No, però scusa, non ho capito. Beh, queste sembrano sempre quelle filosofie che fai bella figura a dire così tra gli amici, quando sei a cena, dici, però come dice la Touche, come dice questo e quell'altro, Touche, no? Però la poi Touche... alla fine non funzionano, capito? La Touche non funziona, la tua teoria. Ma chi te l'ha detto? Monsieur la Touche. Ah bon, allora, le matin, on commence en faisant le premier, le petit déjeuner, on mange pas le croissant, on mange le décroissant. C'est ça la décrescita. Vabbè, ho capito. Tu dois pas... Allora, qualunque cosa tu fassi, ci metti davanti le deux. Ho capito. Per esempio, parlare, de parlare. Cioè, non smetti di parlare. Telefonare, deux telefonare. Deux telefonare. La mente, la tua mente, diventa le deux mente. Ah beh, infatti, mi sembra giusto. E ora, bambini, ricreazione. Bambino Alberto. Oh, dai, allora... Bambino fino a un certo punto, dai. Allora, bambino, no, Barbara Alberti. No. Ma no, perché bambino? No, devo dirvi la verità. Cioè, a me questo appellativo di bambino comincia a starmi un po' stretto, no? Ma vedi, quindi non bambino, Barbara Alberti, ma direttamente Barbara Alberti. Così sei contento? No, Barbara Alberti... Ma no, io sono... Mi chiamo Alberto, capito? Però... Alberti! E ma tu... Quella lì, no, vabbè, è una che è meglio... Alberto, bambino Alberto, siamo qua, non è che ti giri allora, da una parte. Se Cindo mi chiama, non è che posso ignorarlo. Dai, allora, Alberto. Cioè, io ormai sono al terzo anno, sto diventando grande, sono uno dei grandi, no, dell'asilo. E quindi pensavo che anche tra di noi, con tutto il rispetto, voi poteste trattarmi anche in un modo un po' più... Ma quale rispetto? Ma di cosa stai parlando? Cioè, non a chiamare parte... più bambino, ma fare... Com'è, ma, allora, insomma, innanzitutto com'è potete sta storia del fatto più... che sei grande, vediamo, perché quando abbiamo cominciato qui con l'asilo, 3 anni fa, ti abbiamo trovato qua che eri già nei grandi. Sembravi già grande, per no, sono 3 anni che sei grandi, per grandi. Modo di dire. Vabbè, ma io ho avuto il certificato che testimonia, cioè, tu le scuse, no? Cioè, per dire... Sì. Secondo me questo bambino un po' in ritardo. Perché ritardato. C'ho il certificato medico. C'è il certificato perché è in ritardo. Ritardo, ma poi dopo basta andare in anticipo, corri con il maledetto e recupero. Allora, qui un sillogismo difficile da capire. Allora, non vuoi più essere trattato come un bambino? Oh, va bene, vabbè, potremmo anche pensarci, perché tutto sommato. Potremmo chiamarlo Albertino. Ad esempio. No, perché Albertino? No, cioè, pure, vabbè, chiamargli Alberto. A parte che Alberto è che è un po' troppo anonimo, no? Cioè, bambino Alberto ti caratterizzava un po' di più. Così Alberto diventi uno qualsiasi. Ma quello in effetti. Cioè, sarei anonimo. Tutti ti conoscono come bambino Alberto. Forti. Su Facebook sei bambino Alberto. Non puoi cambiare così. Allora, quindi come si è fa? Marketing questo qui. No, praticamente, sì, no? Vabbè, insomma, più o meno. Strategia marketing. Vabbè. Allora, facciamo così, io accetto. Voi mi chiamate ancora bambino Alberto con un tono di, cioè, in modo diverso, no? Più da B2B, come dire, adulto, cioè B2B, cioè B2B. Vuol dire? Ma B2B? Cosa sta dicendo? No, forse mi sono confusa, sì, con dire... qualcosa. No, no, così, come se fossi più grande, che sono più grande, dai. Bambino Alberto. Vedi Gildo, alla fine se li prendi in un certo modo. Però scusa, bambino Alberto, cioè se tu parli con Gildo, ad esempio, che è l'amico immaginario, come fai a pretendere che ti trattiamo da adulto? Quindi, cioè, smetti subito con quello, almeno quello. No, questo è proprio la pietra lavica da cui bisogna partire. La pietra lavica. La pietra tombale, come partiamo. Si dice, capito? Sì. Qui c'è. Miliare anche, così, giusto? Per... Ecco, pomice, lì, anche pomice. Pietra miliare. Sì, va bene. Che. Focaia. Se vabbè. Volete. Se, visto che avete detto che volete prendermi sul serio, sì, vabbè, trattarmi sì. un po' da bambino grande, allora la smettiamo con questo equivoco gigantesco dell'amico immaginario. Gildo è qui, lo sappiamo. Ok, quindi bene, tu c'hai un amico vero che noi non vediamo, quindi siamo noi. Ma con Gildo anche dobbiamo trattarlo da adulto, com'è sta storia? No, ma Gildo è Gildo e poi Gildo parla con me, visto che voi non gli date cittadinanza di esistenza, poverino. Voi trattereste così i vostri nipotini? Ma... Gildo? È nipotini, Gildo ha ragione, tu, e però tu stai qua con me. Ecco. Allora, visto che questi qua poi la smettono, perché io non sono più un bambino. Sei un bambino! No, io sono un bambino grande, no? Invece tu sei un bambino, no? Sei cresciuto, ma sei ancora un bambino dentro. Bisogna stargli dietro, perché se lo lasci perdere un po', poi non si recupera più, capito? Sai che quando fai così avrei voglia che avessero ragione i due lungagnoni. Cioè, se tu fossi immaginario veramente. Beh, lungagnoni comunque lo dice qualcun altro. Poi comunque abbiamo ragione. Bambino Alberto, dai, basta con questa cosa. Ma perché continuate a tramare tra di voi contro di me? Ma che tramare? Cioè, poi voglio dire... Sì, lo so, vedete che non mi prendete sul serio. Vabbè, ma... Bambino Alberto, sarai anche cresciuto, forse, però il carattere è sempre quello lì, sei permaloso, sei irritabile, e allora dobbiamo trattarti da adulto, cambia un po', c'è anche, no? C'è anche il mio movente, no? Cioè, non avete un po' di comprensione? Confondo un po' le parole. Sono in piena crescita, sei un bambino in crescita esponenziale, soprattutto mentalmente. No, a me sembra anche... Mentalmente, quindi sbazzi di questo genere, cioè, metterebbero in difficoltà chiunque, no? Sì, molto autocosciente. Cioè, in tre mesi uno sviluppo mentale di anni, no? Ma chi? Ma cosa? Degli anni. È come mi si è acceso un turbo nel cervello. Nel cervello. Sì, il cervello. E dopo ti spiego cos'è, no? Quella roba lì. Che, comunque stavo dicendo, voi due, allora, vi sembra possibile che io possa non dare segni di squilibrio? Con questa tempesta ormonale Ma mentale. Ma quindi, allora, Gildo... Se vorrei vedere voi due, come se voi due, domani mattina vi svegliate e vi dite, uè, ho un cervello pensante. Cioè, sarebbe uno shock per voi due, no? Vabbè, visto che siete nelle mie abbia. Adesso ci prendi in giro, prendiamolo per adulto, voglio dire, no? Ok, siamo... giusto, infatti, visto che sei grande, adesso reagiamo da grandi, no? Ti diamo due sberle, ti mandiamo a casa con due calci nel culo, e tu non vedere. Andare a piangere dalla mamma. No, perché ormai sei grande, quindi non puoi più piangere. Che paura! Gildo, hai sentito? Boom, boom! La bomba! Ma no, la bomba, è come dire... che paura! Cioè, è ironico, no? Paura. No, io non ho paura, cioè si dice ho paura per dire che non. Per far capire che non hai paura. No, hai paura. No, tu allora. Vabbè. Senti, noi andiamo, perché siccome non è cresciuto, sì. Direi di tu no. Vorrei, allora, tu hai ha solo un po', secondo me, la giornata storta. Sì, che potrebbe essere una cosa adulta, ma in realtà capita anche ai bambini. Sì, ma poi domani dimentica tutto di nuovo quello tu di prima. Non hai paura, infatti, no? Sì, come i cani, no? Li lasci a casa degli anni, poi allora, torni e ti fanno le feste. Dico, voi non Tito, no, fa bravo, Tito.